Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Settima puntata. Lo stregone di Sorate è di aspetto gradevole, capelli rasati che rimediano la calvizie, pizzetto e basette comunicanti. Sotto il camice bianco schizza una buona fibra muscolare. Alla prima visita chiede 150 euro. Inizia con una lunga chiacchierata che ha blande velleità psicoanalitiche. Ti lascia parlare molto e non incalza con domande. Sa ascoltare. E ti illude che il tempo del colloquio sia illimitato, che in quel momento tu sia la priorità assoluta nella sua vita professionale. È cortese e trasmette serenità. La fatica e la sofferenza degli allenamenti sono remote, lontane dalla porta del suo studio. Alle pareti, attestati di lauree conseguite all'estero e corsi di aggiornamento, foto di atleti in azione. Maratoniti sul traguardo, sulle loro teste campeggia un display elettronico che certifica la prestazione cronometrica. Un paio hanno le braccia levate in segno di vittoria. Sono quelli con i tempi peggiori, sopra le 3 ore. Indossano canottiere con la scritta Italia. Fanno parte del kit di abbigliamento che le agenzie turistiche mettono a disposizione dei clienti nelle manifestazioni all'estero. Non mancano foto di culturisti in posa e ciclisti concentrati nello sforzo. Nella parte bassa delle immagini le dedica a Pennarello. È identificato come Doc, Doctor, o con il nome di battesimo. C'è stima e simpatia, ma soprattutto riconoscenza. Mi colpisce la foto sul traguardo di un Ironman in California. Mi alzo dalla sedia in pelle e fisso una foto alla parete. Le interessa il triathlon? Lo detesto. Non riesco a capire come si possa pretendere di praticare decentemente 3 sport. Per me praticarne uno è già un inferno. O è mania di onnipotenza, o è pressappochismo. Il trucco è quello di stare alla larga dall'eccellenza su una singola disciplina, tenendo presente che la coperta organica è limitata. Si rischia di rimanere scoperti se si tira troppo da una parte. E si ricerca la medietà. È orribile. Si tratta di buoni agonisti a fine carriera che hanno già raggiunto l'acme e sono in caduta di prestazione. Hanno bisogno di nuovi stimoli, oppure amatori che hanno scoperto lo sport in età avanzata. E non creda che sia così facile. È una faccenda complicata da gestire, la preparazione è accurata. Io cerco di dare il mio contributo a questi piccoli eroi. Vederli felici è una soddisfazione enorme. Con alcuni sono diventato amico, molti di questi sono stimati professionisti, ma non sono degli improvvisatori. Sono abituati alla disciplina, a ottenere risultati. Sono proiettati verso il miglioramento. Vogliono imparare a interpretare il proprio organismo. È importante, in senso lato, voglio dire. Non gli frega nulla dello sport. Vogliono sentirsi superiori agli altri esseri umani, più forti, più sani, più belli. Vogliono domare l'invecchiamento. Trova ci sia qualcosa di male? Non so. A 16 anni correvo già i 3.000 poco sopra gli 8 minuti. Avevo un sacco di gente intorno che mi pronosticava un grande futuro. È stato piuttosto stressante. Si creano aspettative più grandi di te. Quando hai delle responsabilità addosso si cresce male, troppo in fretta. La capisco, mi creda. Infatti sono moltissimi i talenti che si perdono per strada. Non reggono a livello nervoso. Magari poi a 30 anni si riavvicinano allo sport. In modo goffo, si buttano sul triathlon, sulle ultramaratone, cazzate così. È piuttosto triste. È la sua fascia di mercato o sbaglio? Lei è molto severo. Normalmente gli sportivi sono positivi, non conoscono il rancore. Soprattutto non sono offensivi con gli atleti di livello più modesto. Prima di iniziare a lavorare, cerco sempre di entrare nella mentalità della persona. Le confesso che non mi era mai capitato un tipo come lei. E adesso ha paura che dandomi sostanze dopanti il mio equilibrio psichico esploda definitivamente. Sono un bambino cattivo e con le medicine diventerei insopportabile. Le piace parlare chiaro? Beh sì, più o meno penso questo. Se vuole iniziare a pedalare, facciamo 20 minuti, poi l'elettrocardiogramma. Pedalo e mi concentro ancora sulla foto del superuomo medio. È un individuo positivo che non conosce il rancore. È un professionista ad alto reddito. È facile intuire che abbia fortuna con le donne. È abbronzatissimo. Probabilmente passa buona parte dei mesi estivi all'aria aperta. In questi casi penso sempre alla Sardegna e alle barche a vela. Dubito si conceda settimane bianco o isole caraibiche in inverno, niente villaggi per turisti alienati da abili animatori. Penso piuttosto ad avventure nel mondo. Sono certo che ha una moto enduro. Ha buone frequentazioni e nessuno si scandalizza se negli happy hour non prende bevande alcoliche. Veste polo e giacche sdrucite. Nella foto sul display, oltre al tempo, compare il numero di pettorale e il nome dell'uomo di ferro. Un microchip applicato alla caviglia dà in tempo reale tutte le informazioni. L'iscrizione a queste gare si aggira sui 400 euro. Poi ci sono le trasferte in giro per il mondo. Non è sport da operai. Questa competizione per uomini veri prevede 4 km a nuoto, 180 in bicicletta e 42 a piedi. La coperta organica è stropicciata, fatta a brandelli. Un ritaglio di giornale inserito nel quadretto completa i dettagli dell'impresa e del personaggio. L'uomo di ferro ha iniziato solo da 10 anni l'attività agonistica. Lavora in uno studio notarile avviato dal bisnonno paterno. È arrivato 321esimo assoluto su 3.000 partecipanti, quinto tra i master oltre 50 anni. Dall'aspetto fisico denuncia al massimo una 30ina d'anni. Il corpo è completamente depilato nelle parti che il body lascia scoperte. Le fasce muscolari sopra il ginocchio sono definite, spaccate in due in un crepaccio che percorre tutta la coscia. Vene dilatate rendono irregolare la zona dei polpacci. Non credo di sbagliare ipotizzando l'uso di testosterone, GH, steroidi anabolizzanti ed EPO. Non sono stati impiegati per un atleta in odore di gloria olimpica. Il doctor ha somministrato queste sostanze per rendere ipertrofico l'edonismo di questo notaio ingordo di gratificazioni. La stessa foto sarà appesa anche nel suo studio. I clienti ammirati non potranno che chiedere conto dell'impresa. Il doctor, prima di compilare una lista di esami clinici, mi sottopone a test standard, gli stessi di una normale visita di idoneità agonistica. Elettrocardiogramma sotto sforzo e plicometria per definire la percentuale di grasso che ricopre la fibra muscolare. Seguono domande sulle prestazioni atletiche del paziente e sulle passate patologie. L'atletica leggera tradizionale, quella seria, oggi non è remunerativa. Rappresenta una parte minuscola della sua fetta di mercato. Di recente aveva preparato un atleta per una corsa podistica di 106 km con un'altimetria spaventosa. Il bancario voleva chiudere una modesta carriera sportiva iniziata in gioventù come pallavolista, con un'ultima impresa epica. Aveva commissionato ad un amico regista un vero e proprio documentario su questa avventura ai limiti della follia. Riprese minuziose delle fasi della preparazione, interviste ad amici e colleghi, le ansie della fidanzata e dei genitori, le sue buffe rassicurazioni in dialetto romagnolo, fino alle fasi della gara. L'aspetto farmacologico veniva illuso. Il bancario aveva corso 14 ore su e giù per gli Appennini con una telecamera incollata addosso. Nei primi 20 chilometri dialogava con il regista che usciva con mezzo busto da un pick-up. Poi si era concesso solo poche frasi ai punti di rifornimento. Agli ultimi due ristori aveva vomitato una sostanza filamentosa che pareva non voler congedarsi dal suo corpo, nemmeno sputando con forza. Alla fine aveva chiuso 128esimo, stanco ma felice, con un sorriso dolce post-parto incollato al viso sudato. Il mediometraggio era stato proiettato in diversi festival, aveva vinto anche un premio minore. L'impresa sportiva aveva comportato un investimento di 750 euro, in buona parte risucchiati dal medico sportivo che praticava le iniezioni e le flebo nel suo studio. Lo stregone oggi si muove nella fascia di mercato del triathlon, delle ultramaratone e delle corse a tappa in ambienti estremi come il deserto del Sahara. Il ciclismo è troppo inflazionato da colleghi più noti di lui. Aveva visto giusto nell'individuazione di sport emergenti. A 2 anni da queste premonizioni avevo uno yacht ormeggiato a San Floran in Corsica e una villa sulla costa amalfitana. Le inchieste di magistratura in cerca di celebrità lambivano appena il calcio e il ciclismo professionistico, senza peraltro arrivare a nulla di concreto, senza minacciare il sistema, limitandosi a perseguire animali usciti dal branco e dal giro degli sponsor più potenti. Qualche titolo di giornale e risibili squalifiche di pochi mesi per gli atleti colti in fallo. Solo un ciclista molto noto e sensibile era entrato in deriva esistenziale definitiva. Fatale l'escursione tra il momento di massima idolatria e l'accanimento dei media che lo avevano sgretolato dopo le accuse di doping. Un elastico lo aveva strozzato. Era stato trovato in un residence di una brutta località balneare a pochi chilometri dal suo paese natale, in overdose di cocaina. Percorrendo l'autostrada è visibile una gigantesca biglia che racchiude la sua immagine. È posta davanti a una costruzione massiccia, lastricata di vetri scuri, la sede legale e amministrativa dello sponsor della sua ex squadra. Oggi è materia da fiction televisiva di prima fascia oraria. Il doctor sfoglia in silenzio riviste di ciclismo per nulla disturbato dal ronzio della cicletta azionata dalle mie gambe. Non so perché ho prenotato questa visita. Se Roberto e Giulio lo venissero a sapere mi ucciderebbero. Identica reazione per ragioni diverse. In realtà le cattive sensazioni atletiche continuano e i risultati confermano le mie impressioni. Non è un fatto psicologico, come si affanna a ribadire a disco rotto Roberto. Ne ho le palle piene dei suoi. È un problema di testa, è un fatto psicologico. Sono anche certo che le ultime fiale che mi ha passato Giulio sono identiche alle prime solo nell'etichetta esterna. Adesso mi chiedo se almeno le prime fossero buone. Sono confuso. Il dottor alza lo sguardo dalla rivista e mi fa cenno di smettere di pedalare. Mi fa stendere sul lettino per attaccarmi gli elettrodi. Anche io ho foto alle pareti in casa mia. Nessun stimato professionista, ma solo atleti sfortunati e infelici. Non è così strano. È affascinato dai perdenti, molti lo sono. Chi le ha parlato di me? Un nuotatore di Pavia. Non ho preparato mai nessun nuotatore. Evidentemente la sua fama è andata lontana. Mi scusi, sono io che la conosco di fama. Lei è un atleta evoluto, avrà tecnici e preparatori più competenti di me e gratuiti. È un momento confuso, mi stanno succedendo cose strane. Ho bisogno di un consulente esterno. Non lavoro su atleti del suo livello, non ancora. La responsabilità è davvero troppo elevata. Ho visto le foto alla parete. Lei è specializzato in sport estremi per gente mediocre. L'atletica tradizionale è quanto di più estremo. La concorrenza sulle distanze classiche del mezzofondo è spietata. Gli Ironman e le ultramaratone a confronto sono cazzate. Il capolavoro è emergere su distanze normali corse a livelli altissimi. Lo so, è per questo che non mi occupo di gente come lei. Non inizio qualcosa di troppo complesso, destinato all'insuccesso. Vuole continuare con la massa di coglioni che si allenano nelle pause pranzo per entrare nel gregge della maratona di New York? Sono carini, tutti con la maglia sponsorizzata dall'agenzia Viaggi e la scritta Italia dietro. Una curiosa nazionale di pecore ottuse ed entusiaste, buone per le agenzie Viaggi, non per l'atletica. L'atletica è un'altra cosa. Quest'anno gli italiani erano 3.500, solo il pettorale costa quasi 500.000 di vecchie lire. Poi c'è il volo, l'albergo. E non ci pensano nemmeno che sarebbe ora di portare il nipote in pista. Giocano ai supereroi che non mollano. Il suo astio è eccessivo. Fanno girare un vortice di denaro di cui quelli come lei indirettamente beneficiano. Può darsi, comunque adesso basta parlare di loro. Le vorrei parlare di me. Procediamo con ordine, ma non le prometto nulla. Sta prendendo integratori, che so, arginina, cose del genere. Ho preso catene montuose di amminoacidi. Monte arginina, monte leucina, eccetera. Risultati? Buoni per la farmacista. Veste Armani e Prada sotto il camice bianco. Capisco. Anche lei non si fa mancare nulla. I quadri nella sala d'aspetto sono di pittori quotati. Si interessa di arte? Non me ne può fregare di meno. Veniamo al punto. sono tutte stampe senza valore. Ah, prende altre sostanze, voglio dire, roba seria? Non so. Come non so? Non lo so più. Credevo di assumere EPO e GH, ma oggi non mi fido più della persona che mi passa i prodotti. Forse negli ultimi tempi mi passa farmaci taroccati. Lo so, può sembrare una follia, una mia paranoia, sto diventando matto. Non necessariamente. Ma è assurdo. Non sono mica un tossico del parco e non pago i farmaci a questa persona. Un delitto senza movente. Ma che interesse avrebbe? Si chiama sperimentazione. O pensa che si vada alla cieca su atleti di interesse nazionale. Si fa sperimentazione su atleti di fascia media. Si raccolgono i dati e si studiano. Non mi stupirei che con lei avessero alternato farmaci veri a soluzioni inutili di glucosio per verificare l'effetto placebo. È una procedura piuttosto usuale. Certo, poi i dati vanno letti da ricercatori specializzati. E lei che ne sa? Nella sala d'aspetto ho visto dementi semipalestrati che devono prepararsi per la stagione estiva. Deve limitarsi a curare la definizione dei loro pettorali in previsioni di camicie aperte. Perché non fa una saletta solarium e depilazione? È lei che è venuta a cercarmi. Questo attacco mi sembra inutile. La smetta di giocare al bambino cattivo. Mi scusi, sono nervoso. L'alternanza di risultati degli ultimi tempi mi fa impazzire. La capisco. Di recente la sua federazione ha chiesto un mio contributo. Mi hanno mandato alcuni atleti. Non alleno solo Bagnini. E dell'autoemotrasfusione che mi dice? Mi incuriosisce. Esatto, oggi è poco più che una curiosità. Lei ha già usato l'EPO. È la nipote più sveglia dell'autoemotrasfusione. Da quel po' che ho capito non mi pare potesse esserci nulla di illecito. Si prelevano circa 500 cc di sangue. Dopo un paio di settimane si ripete l'operazione. Il sangue prelevato viene trattato separando la parte liquida da quella corpuscolare, i globuli rossi, la vostra benzina buona. Questa parte viene immersa in un liquido fisiologico e conservata a bassissima temperatura. L'atleta continua ad allenarsi in stato di deplezione sanguigna, una sorta di deficit. Qualche giorno prima della gara viene riammesso nel sistema circolatorio dell'atleta. Fantastico, nessun problema all'antidoping. Orribile, se lo scordi, le ripeto, è archeologia. A volte il sangue lo prendevano da un altro soggetto, non dall'atleta stesso. In questo caso si può rilevare la presenza di sangue estraneo attraverso la prova del DNA. Lei si farebbe trasfondere sangue di uno sconosciuto per andare più forte? L'idea non mi disturba affatto. Potrebbero aver fatto questo giochino ad una ragazzina di 15 anni. C'erano spesso complicazioni gravi, reazioni allergiche ai prodotti usati per la conservazione del sangue, effetti collaterali derivanti dal sovraccarico circolatorio e altre variabili poco piacevoli, fuori controllo, come la trasmissione di malattie infettive. Ritengo improbabile che abbiano fatto certe porcherie su ragazzine. Improbabile, certo. Ripenso a Gaudenti Fabio, classe 1981, biglie nere e nervose al posto degli occhi. Uno sguardo che ricorda una regressione animale. Per essere davvero forti, gli uomini devono regredire nella catena evolutiva e le donne diventare uomini castrati, con l'aiuto del progresso scientifico. Non gli chiedo se tra gli atleti che segue c'è anche Gaudenti. I medici sportivi sono più riservati degli avvocati. Realizzo di non essere un atleta di punta per la federazione. Sono solo una cavia di lusso. Magari gli studi su di me serviranno a lanciare verso livelli astrali un atleta miticcio con passaporto italiano. E Pechino 2008 la vedrò in televisione. Mi tocco istintivamente il deltoide posteriore, una specie di tic nervoso. Oggi il laser fa miracoli per cancellare i tatuaggi. Tolgo la camicia e mi giro di profilo verso il dottore. Devo cancellarlo? Non necessariamente. Vedremo. L'iniezione è leggera. Non me ne sarebbe comunque importato nulla del dolore. La fiala riposa nel cassetto sotto la sua scrivania, più sottile e affusolata rispetto a quella di Giulio. Non cerco di recuperarla per leggere l'etichetta, non faccio domande, nessuna. Affido agli allenamenti dei giorni seguenti le uniche risposte che mi interessano. La devo registrare nel file, tengo una scheda di tutti gli atleti che preparo, Bagnini compresi. le assicuro la massima discrezione. Inutile dire che pretendo lo stesso da lei. Non sono come il nuotatore. Non esiste nessun nuotatore. Stia attento al suo amico Giulio, ma non entri in conflitto. Devo avere paura di Giulio? Non necessariamente. Si limiti a rispettarlo e a non considerarlo un visionario. Era caduto in disgrazia, ma dopo l'elezione del nuovo presidente sta rientrando in gioco alla grande. Indica atleti su cui si può investire per Pechino 2008. Sarà un'edizione olimpica epocale, una rivoluzione. Non mi sto riferendo solo al nostro misero paese. Non essere esposti in vetrina con atleti competitivi a Pechino significa sparire nei fondi di magazzino. È l'ultima occasione che la grande industria delle sponsorizzazioni dà all'atletica mondiale. Le televisioni private e pubbliche nel nostro paese stanno pensando di mollare l'atletica. Il nuoto è la specialità individuale emergente. Ragazzi bianchi che vincono medaglie e sono esteticamente presentabili. Alcuni sfilano nelle passerelle della moda o posano per servizi fotografici su riviste glamour. Si fidanzano con donne del mondo dello spettacolo. Giulio non mi ha parlato bene di lei. La cosa non l'ha dissuaso dal presentarsi qui oggi. Prepara atleti di colore? No. Insomma, non sono affari suoi. La vedrò ogni lunedì e mercoledì alle 19:30. Le praticherò le iniezioni e le flebo nel mio studio. Anche le compresse le assumerà qui dentro. Giulio sa che veniva da me oggi? Non gli ho detto nulla, ma ho messo in conto che lo venga a sapere. Lui sa sempre tutto. Non è un problema, non necessariamente. Mi piace quando dice non necessariamente. Mi dà quella sicurezza di cui necessito. Si abbandona sulla sedia, tiene la stilografica d'argento tra le nostre figure, all'area di chi è in vena di rivelazioni. Non riponga le sue speranze esclusivamente sul fisico e sui farmaci. Ognuno di noi ha una dimensione altra. Noi siamo molto di più del nostro corpo. È cosciente di questo? Mi scusi, dottore, ma non sono credente. No, non parlo di religione. Mi scusi lei. Vabbè, dimentichi queste stupidaggini. L'assistente non mi chiede nessuna parcella. L'argomento economico è ignorato. Il dottore le ha fatto una breve telefonata e io ho guadagnato la porta senza un saluto. Una specie di buttafuori si alza dalla sedia, è il suo turno. Ha riposto una rivista di culturismo in lingua inglese in un mobile antico molto basso. È pervaso da tic nervosi. Clavicola e mento vorrebbero disperatamente congiungersi. Non è l'ultimo cliente della giornata. Due ragazzini attorno ai 15 anni si scambiano aneddoti scolastici sorvegliati da un adulto sulla cinquantina. Giovani ciclisti e relativo patron. Poi c'è una specie di manager dai modi effeminati, consulta carteggi. Appoggiata alla sua sedia c'è una borsa di pelle invecchiata punteggiata di grosse borchie di metallo. Sembra un bibliotecario sopravvissuto a un'epoca remota. Anche da seduto è evidente la sua gobba. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.